e sono andate, secondo Libero, per esempio a Marco Palumbo, Federica Rampini, Alfredo Dantimi, consiglieri di centrosinistra del quarto municipio di Roma. Assieme a loro anche Mirko Coratti, ora vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma, cresciuto politicamente nella stessa zona. Cioè via libera ai costruttori e ai PD, case scontate, questa è l'accusa di Libero. Vabbè, come posso non chiudere oggi con la Gazzetta dello Sport? Eccola qua, in tutto il suo splendore. E escono i colori rossoneri dappertutto con un patosferico Milan. Questo è il titolo di apertura. Poi si potrebbe sfogliare, pagina 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tutte pagine assolutamente da godere, dalla prima all'ultima riga. Il Milan ha vinto 3-0 contro il Napoli. C'è anche questa butade di Berlusconi, anche lì ne ha fatta un'altra, insomma, di butade, che ha detto poco prima della partita: ora andiamo tutti a San Siro con il Milan che deve battere il Sud. Cioè non il Napoli, il Sud, va polemiche. De Laurentiis, il presidente del Napoli, si è imbufalito, ha detto è uno showman. Ha detto anche d'altronde Berlusconi che ha perso due scudetti per colpa degli arbitri comunisti. Arbitri comunisti, è vero. Comunque, dato di fatto, è il risultato sportivo che è l'unica cosa che conta. 3-0. Ora il GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20 minuti. Voglio salutare il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Ben ritrovato, buongiorno Cascini. Buongiorno. Senta, il leader, il presidente della Camera, Fini, ha definito risibile l'accusa che ha fatto Berlusconi di un patto tra lo stesso Fini e voi per fermare la riforma della giustizia. Anche per lei è risibile, cioè fa ridere anche lei o fa considerare cosa? Beh, a me non mi fa ridere per niente, mi preoccupa molto che la polemica politica arrivi poi a trascinare l'associazione dentro uno scontro che non ci appartiene. Noi abbiamo sempre alla luce del sole manifestato le nostre perplessità sulle iniziative legislative che si andava discutendo in Parlamento, che poi qualcuno abbia trovato condivisibili le nostre osservazioni, le nostre critiche. Questo non deve essere inteso come qualcosa di, che è avvenuto sotto banco, è avvenuto alla luce del sole, abbiamo dichiarato la nostra contrarietà, abbiamo convinto qualcuno. Le persone intelligenti sono quelle che sono in grado di cambiare idea. Quindi lei dice solo il fatto che Fini magari abbia apprezzato alcune delle vostre critiche, abbia condiviso vostre critiche, fa dire a Berlusconi che c'è un patto tra di voi. Io penso che le nostre critiche fossero fondate, che avessero il consenso di molte persone ragionevoli, le forze dell'ordine, le persone impegnate sul tema della sicurezza, e probabilmente l'onorevole Fini non solo avrà parlato con noi, avrà parlato anche con gli operatori della sicurezza, con i suoi esperti, avrà capito che quelle riforme dettate probabilmente da momenti di rabbia o di emotività erano pericolose. Cioè, ma per esempio la riforma delle intercettazioni, perché Berlusconi è tornato a dire, dicendo anche non uso più il telefonino perché siamo tutti intercettati, e questa riforma deve tornare, il vecchio testo, insomma, che ha fatto anche tanto discutere. Guardi, non c'è niente di più sbagliato che decidere delle leggi di uno Stato a partire da proprie vicende personali. Allora, perché fa questo, secondo lei, Berlusconi? Cosa? Nel momento in cui dice che bisogna riformare la legge sulle intercettazioni perché alcune sue conversazioni private sono state, a suo dire, captate, questo, come dire, è già un punto di partenza sbagliato. Il problema va analizzato secondo le necessità e i bisogni della sicurezza da un lato e della tutela della riservatezza dei cittadini dall'altro. Noi da tempo abbiamo detto che serve una legge che eviti la diffusione del materiale non rilevante per le indagini. Mi domando da anni perché il Parlamento non approvi questa riforma che è condivisa da noi e dalla Federazione della Stampa, forse perché fa comodo che poi le intercettazioni continuino a uscire per poter poi proporre riforme radicali del sistema. Dice. Ma però quando si parlava per esempio di sanzioni, multe agli editori, multe ai giornalisti, anche addirittura il carcere, insomma, Berlusconi varie volte ha evocato il carcere per chi pubblica qualcosa di impubblicabile, giustamente io dico probabilmente si sono levati scudi a dire è sbagliato, è illiberale. Certo, ma ma anche noi diciamo questo, noi diciamo che la soluzione migliore è prevenire, e cioè distruggere all'origine, prima che diventino pubbliche, le intercettazioni che non sono rilevanti per il processo, in modo che una volta distrutte non possono essere né diffuse né pubblicate. Fare la faccia feroce nei confronti dei giornalisti non serve a nulla, perché i giornalisti, anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea, hanno il diritto di pubblicare le notizie che pervengono loro. Allora l'unica soluzione è distruggere prima che il materiale venga diffuso. Questa proposta ragionevole fu approvata da un ramo del Parlamento 15 anni fa, poi 10 anni fa, e nonostante questo non è mai diventata legge. Io penso, ormai mi sono convinto, che il motivo per cui questa riforma semplice di due articoli non viene fatta è perché si ha bisogno di creare lo scandalo sulle intercettazioni, perché in realtà l'obiettivo vero è quello di ridurre l'uso di questo strumento di indagine. Senta, ma mettendosi, se vuole, un attimo nei panni di Berlusconi, anche lei non si sentirebbe un po' perseguitato? Usa questa... Nel senso, ci sono intercettazioni di molti, però effettivamente quelle che finiscono spesso sui giornali sono quelle relative alle sue inchieste, ecco. Le intercettazioni se ne fanno tantissime, ovviamente, come dire, non su tutte c'è un interesse giornalistico alla diffusione. Io penso che chi svolge funzioni pubbliche deve comunque accettare il fatto che le sue vicende, possono avere anche private, una rilevanza pubblica, e quindi credo che sia uno dei prezzi che pagano gli uomini pubblici. Che poi questo avvenga tramite uno scoop giornalistico o attraverso un'inchiesta giudiziaria su fatti di rilievo penale che poi coinvolgono indirettamente anche il capo del governo, credo che in una società della comunicazione come la nostra sia inevitabile. Io non parlerei assolutamente di persecuzione. E, d'altra parte, alcune vicende accadono anche perché la magistratura ha il dovere di indagare su alcune vicende. Vorrei ricordare che l'ultima indagine nasce non da un'iniziativa estemporanea della magistratura, ma da un intervento del Presidente del Consiglio sulla questura, cui è poi seguita una doverosa indagine che ha portato all'attuale processo. Sì. A proposito di questo, le chiedo, non è un processo in quale lei ovviamente c'entra nulla, però da rappresentante del sindacato dei magistrati, Berlusconi lo vorrebbe vedere che si presenta il 6 aprile, perché qualcuno dice, ma insomma, uno usa le strategie difensive che ci sono, per esempio anche il legittimo impedimento, l'ultima è il legittimo impedimento degli avvocati che, essendo parlamentari, potrebbero essere impegnati in Parlamento quel giorno. Guardi, ci sono due punti di vista. Io, come rappresentante della magistratura, dico che è lecito da parte dell'imputato esercitare tutti gli strumenti che l'ordinamento gli consente per difendersi nel processo e per sostenere le proprie tesi nel processo. Quello che bisogna evitare invece è di attaccare i magistrati accusandoli di perseguire fini diversi da quelli di giustizia. Come cittadino devo dire che avere il capo del governo raggiunto da accuse formulate da una procura della Repubblica molto gravi, come cittadino penso che di avere un interesse a che questi fatti vengano accertati, la fondatezza o meno di questi fatti, e la speranza è che il capo del governo sia innocente da queste accuse, è un interesse di tutti i cittadini. La ringrazio, buona giornata per essere stato con noi. Giuseppe Cascini, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato dei magistrati. E che dire, noi dopo la pubblicità parliamo ancora di Libia nel nostro sondaggio, che già potete votare su radio24.it. Parliamo della Corte Penale Internazionale, avevamo già parlato nei giorni scorsi. Ebbene, è arrivata quella risoluzione dell'ONU che impegna la Corte a dire: aprite un fascicolo che è stato aperto per ipotizzare per Gheddafi un'incriminazione per crimini contro l'umanità o genocidio. Questi sono i reati per i quali si può muovere la Corte Penale Internazionale. È una soluzione giusta, perché molti sono critici di fronte a questo organismo di giustizia internazionale che non si capisce bene, non è neanche accettato da tutti gli stati importanti come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, Israele, non l'hanno mai ratificata questa corte, non l'accettano, non la riconoscono. È giusta questa soluzione, cioè processare Gheddafi per eventuali crimini per l'umanità e portarlo all'Aia come è stato fatto per Milosevic? Che ne pensate? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, votate su radio24.it nell'homepage bianco o nero. Ci siamo tra pochissimo. 24 mattino. E allora, alle 8:33 minuti, il nostro sondaggio di oggi parla di Gheddafi, parla della Corte Penale Internazionale che, dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha aperto ufficialmente un fascicolo per vedere se è possibile incriminare per crimini di guerra o genocidio il leader libico e processarlo all'Aia. Quello che vi chiediamo è: secondo voi è una soluzione giusta? È giusto processare Gheddafi alla Corte Penale Internazionale? È giusta un'idea di giustizia internazionale nei confronti del leader della Libia? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Detto che l'80% di voi per il momento su Radio 24 dice di sì, cioè questa potrebbe essere una soluzione giusta, detto che Gheddafi, poi lo sentiremo intervistato da Christiana Manpur, dalla BBC, dal Sunday Times, si è prodotto in una fragorosa risata l'idea di un esilio dalla Libia. Ne vogliamo parlare con Sergio Romano, ambasciatore romano, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Così come voglio salutare il professor Fausto Pocar. Buongiorno, professore. Buongiorno. Dobbiamo dare magari qualche spiegazione. Che il professor Fausto Pocar è un giurista di fama internazionale, è stato anche presidente per 4 anni del Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex Jugoslavia e attualmente fa parte sempre di questo tribunale, anche del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Insomma, un uomo che nella giustizia internazionale la conosce da tempo. Io vorrei però, siccome ne conosco lo scetticismo, ieri espresso per esempio sempre sul Corriere della Sera anche da Pierluigi Battista, lo scetticismo nei confronti di questa possibile soluzione di giustizia internazionale dell'ambasciatore Sergio Romano, le vorrei chiedere perché è scettico lei, Romano? Ma perché il Tribunale costituito da un certo numero di stati in assenza della maggiore potenza mondiale, vale a dire gli Stati Uniti, ha a mio avviso una credibilità internazionale modesta. Non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti hanno rifiutato di firmarlo perché ritenevano che mai e poi mai avrebbero permesso, tollerato che un cittadino americano venisse processato da un tribunale penale internazionale. E quando ci fu l'allargamento dell'Unione Europea all'est nel 2004, gli Stati Uniti fecero molte pressioni perché i paesi, i nuovi membri dell'Unione Europea, si impegnassero bilateralmente a non deferire, a non permettere il deferimento di un cittadino americano al Tribunale Penale Internazionale. Questa mi sembra. Questo è già uno scenario. Sì, perché ricordiamo, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro anche la Russia, la Cina, Israele, come la stessa Libia, sono tra gli stati che non hanno ratificato, non riconoscono questa Corte Penale Internazionale. Professor Pocar, questo è un problema? Abbiamo visto tecnicamente di no, perché la risoluzione dell'ONU ha investito la Corte del potere di aprire un fascicolo su Gheddafi. Ma tecnicamente. Il fatto che gli Stati Uniti e molti altri stati, la Libia compresa, non abbiano ratificato lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, non è un ostacolo quando il Consiglio di Sicurezza prenda l'iniziativa di deferire direttamente la situazione alla Corte Penale. C'è un articolo dello Statuto che consente questa possibilità. Naturalmente le Nazioni Unite devono agire, il Consiglio di Sicurezza deve agire nell'ambito del capitolo settimo della Carta, il che vuol dire che deve agire all'unanimità dei membri permanenti del Consiglio, ma in questo caso c'è stata. Ecco, però lo scetticismo, non so se Sergio Romano condivide anche questo tipo di scetticismo, è anche la questione di dire perché voler dare un palcoscenico per esempio a un leader che magari nel momento in cui cade nella polvere, nel momento in cui finisce una sua era, un suo regime. Ecco, secondo lei, Romano, portarlo all'Aia vorrebbe dire renderlo protagonista anche nei confronti della storia? Ma questo non mi sembra un'obiezione, perché tutto sommato troverei giusto che una persona accusata avesse il diritto di difendersi pubblicamente, e se è uomo di Stato, se è uomo pubblico, di fronte a una platea la più larga possibile. No, mi sembra che ci sia un'altra obiezione di sostanza, forse più importante. Tutti sapevamo chi era Gheddafi. Tutti sapevamo che cosa Gheddafi aveva fatto alle sue opposizioni, come aveva trattato gli islamisti, in particolare da Bengasi. Sapevamo quale fosse il suo carattere, capriccioso, crudele. Non dimentichiamo gli assassini mirati, per esempio, degli esuli a Londra. Insomma, non possiamo dire siamo stati sorpresi dall'apparizione di un Gheddafi diverso da quello che noi avevamo conosciuto e immaginato. Semplicemente lo condanniamo ora perché riteniamo che in questo momento la transizione verso un diverso regime sia la migliore delle soluzioni possibili, e Gheddafi a questo punto rappresenta un ostacolo sulla strada. Ma quando invece ritenevamo che fosse importante avere in Libia un regime stabile, un regime che ci desse qualche garanzia, con cui fosse possibile fare degli affari che, badi, non erano per nulla illeciti, erano affari nell'interesse dei nostri paesi, ebbene allora su tutto questo insomma calavamo il silenzio e l'ombra e il velo del pudore. Non mi sembra che una giustizia internazionale possa funzionare sulla base del concetto di utilità in quel particolare momento. Questo è molto interessante, professor Pocar, come si risponde a questa accusa, io posso dire, cioè finché alcuni dittatori nel mondo convengono per vari interessi che non stiamo qui ad approfondire, li si lascia lì, e dopodiché ora la Corte Penale Internazionale o comunque le Nazioni Unite si sono mossi, nel caso anche ricordiamo magari del Sudan, di Bashir, ora di Gheddafi, quando insomma tutti hanno capito che bisogna voltare le spalle a un leader. Ma io sono d'accordo con Sergio Romano che la giustizia penale internazionale non dovrebbe essere, diciamo così, tra virgolette, manipolata a scopi puramente politici, e che quindi dovrebbe fare il suo corso indipendentemente da questo. Mi domando però se lo stato attuale della comunità internazionale è tale da permettere esattamente questo, perché non abbiamo una comunità internazionale organizzata al punto da prevedere un sistema giudiziario, diciamo così, che sia completamente separato da considerazioni politiche. Il fatto che lo Statuto di Roma preveda questa possibilità di riferimento da parte del Consiglio di sicurezza, sempre che i membri permanenti siano d'accordo, lo conferma. Vorrei però sottolineare un punto: noi stiamo parlando di Gheddafi, ma la risoluzione del Consiglio di sicurezza ha anche una valenza diversa, ha una valenza politica diversa, cioè non è stato riferito alla Corte Gheddafi come persona, sì, ma la situazione della Libia, il che vuol dire che ci sono molte altre persone che figurano fra l'altro in un annesso, almeno in parte e senza pregiudizio di quello che farà il procuratore della Corte, che possono essere toccate da questo problema. Cioè familiari, quindi, membri dell'esercito, chiunque. Esatto, quindi c'è il problema anche di voler fare una pressione su altri perché sappiano che conseguenze possono andare incontro e possibilmente si stacchino adesso dalla dirigenza libica. Professor Pocar, c'è un unico precedente che è assimilabile a questo, che è quello dell'appunto leader del Sudan, Bashir, che è stato incriminato per crimini, certo, contro l'umanità, e che è assolutamente, io posso dire libero e bello, forse no, ma insomma è l'attuale presidente del Sudan, ha fatto anche dei viaggi all'estero. Cioè, allora, qualcuno dice si fa beffe di questa decisione, di questa incriminazione, di cui dice vabbè, finché io me ne sto in Sudan non è che mi vengano a prendere. Allora anche questi pone dei dubbi sull'effettiva efficacia di uno strumento del genere. Non c'è dubbio, questo dipende dal fatto che lo statuto non è stato ratificato da tutti gli stati e quindi non tutti gli stati cooperano con la Corte, e finché questo non avverrà la giustizia della Corte sarà sempre imperfetta sotto questo profilo. Io vorrei sentire un paio di ascoltatori. Vediamo Emiliano da Bergamo, Emilio anzi, che ci ha chiamato all'800240024. Emilio, che pensa? Sì, buongiorno. Sì, Emilio, non Emiliano. Sì, Emilio, dica. Senta, no, io sono assolutamente d'accordo con l'opinione di Romano, perché sono perlomeno perplesso sul fatto che Gheddafi, sappiamo benissimo chi è stato negli scorsi 25 anni, sappiamo benissimo come ha raggiunto il potere e come lo ha gestito. è stato trattato in questi anni dalla comunità internazionale come un soggetto assolutamente legittimo, ha concluso affari di ogni tipo con l'Europa e improvvisamente adesso che ha dei problemi di gestione del potere, noi ci permettiamo di, attraverso una risoluzione dell'ONU che anche lì ripeto, quali sono i presupposti per cui l'ONU emette una risoluzione di questo tipo, quando un soggetto che è a capo di un governo, di uno Stato, ha dei problemi di gestione interna. Ma mi scusi Emilio, quali sono i presupposti? L'ONU è un organismo internazionale. Ma l'ONU è un organismo internazionale, cioè la Libia ne fa parte, peraltro, quindi voglio dire. Quali sono? Non capisco, perché ci sono dei problemi in un paese, l'ONU che cosa fa? Professor congela i beni. Professor, va bene. Professor Pocar, su quale l'ascoltatore ci chiede, su quali principi l'ONU, lei che saprà dare una risposta molto più esaustiva della mia. Ma mi pare che la base della risoluzione dell'ONU sta nel fatto che è vero che i problemi della Libia possono essere considerati interni sotto un certo profilo, ma non lo sono più quando nella Libia vengono commessi dei crimini contro l'umanità, cioè dei crimini internazionali. Il fatto che ci sia una situazione di sistematica o diffusa violazione dei diritti con uccisioni, eccetera, che ha fatto parlare alcuni addirittura di genocidio, comporta che la situazione non è più interna dal punto di vista del diritto internazionale, ma diventa esterna. Ecco, quindi giustamente le Nazioni Unite possono intervenire su questo punto. Ambasciatore Romano, lei trova che sia un'apertura di fascicolo un po' pretestuoso che porterà, non dico un po' a nulla, cioè che il destino di Gheddafi sarà segnato invece per altre vie che non siano quelle dell'AIA in realtà? Ma le risponderò indirettamente ricordando ancora una volta il caso di Bashir. Sì. Il caso di Bashir è doppiamente interessante perché da un lato vi è stata naturalmente la richiesta di un mandato d'arresto internazionale per Bashir, ma negli scorsi giorni dopo il referendum sudanese la stampa americana riferiva che il governo degli Stati Uniti si stava orientando verso il suggerimento che sarebbe stato dato al procuratore del Tribunale Penale Internazionale di ritardare di un anno qualsiasi azione giudiziaria nei suoi confronti. Tutto da confermare, tutto da dimostrare, queste voci qualche volta non hanno né padre né madre, però la stampa americana questa notizia l'aveva riportata. E allora qui siamo di fronte a un bel paradosso: da un lato è perfettamente comprensibile che si voglia rinviare di un anno qualsiasi atto giudiziario contro Bashir. Che cosa facciamo? Mettiamo in crisi la dirigenza sudanese nel momento in cui già una crisi esiste, vale a dire la separazione del sud dal nord? Il buon senso vuole che si lasciano le cose come stanno, quantomeno per un po' di tempo. E che gli Stati Uniti abbiano questa intenzione mi sembra ragionevole, comprensibile. Ma guarda caso, la persona che detterebbe i tempi della giustizia internazionale è la persona nel senso di Stato, che non ha ratificato il trattato. È uno degli Quindi stati, siamo le solite, voglio dire. Da un lato non vogliono che il trattato li concerna e dall'altro lato se ne vogliono servire. Il paradosso. Allora, ci fermiamo per le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È giusta una via che porti Gheddafi alla Corte Penale Internazionale per processarlo per crimini contro l'umanità? L'80% di voi per ora dice di sì. Ne stiamo discutendo con Sergio Romano, con il professor Fausto Pocar, che lavora da tanto tempo, tra l'altro anche è stato presidente del Tribunale Internazionale per i Crimini della ex Jugoslavia. Voglio farvi sentire Gheddafi. Ieri ha parlato con tre giornalisti. Uno è Christian Amanpour, la star del giornalismo internazionale della ABC. Gli ha fatto una domanda, Christian Amanpour, sull'esilio, che possiamo sentire. La domanda ovviamente è in inglese, cioè le chiedono di lasciare la Libia, cioè questa è l'opzione sul campo. Obama vada in esilio, che ne pensa? La risposta di Gheddafi: chi mai lascerebbe la sua patria? Una sonora risata e che insomma fa parte anche un po' del personaggio. Ibrahim da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, quello che ho volevo dire? Che io sono va bene mandarlo sotto processo, però non è all'aria, perché sarebbe un onore per lui. Si sente un po' male quello che dice, cioè mi scusi, lei sta dicendo va bene sotto processo, ma non all'aia, dove? Non all'aia, bisogna mandarlo sotto processo in Libia. In Libia? Sì, perché lui ha ammazzato la gente libica. Quindi lì in Libia va processato, perché è un'altra ragione, perché lì in Libia c'è la condanna a morte. Ah, cioè lei dice va processato in Libia perché lì c'è la condanna a morte, cioè lei vuole la pena. Certo, perché, e meno male che all'AIA non c'è, meno male che purtroppo non c'è. Purtroppo lei dice, meno male, dico io. No, io dico purtroppo. E io meno male. Male, vede questa gente che la sta ammazzando a sangue freddo, non vede quando un leader di un paese dice, ma la gente dice andate, ammazzerò gente, tutta la gente, via, passerò via per via. Vabbè, no, ma la sua posizione è chiara, non il suo audio, mi spiace, però insomma io continuo a insistere. Lei dice purtroppo non c'è la pena di morte all'AIA, mentre in Libia sì, e lì andrebbe processato. Io dico con la stessa forza con cui lei dirà sempre purtroppo, io opporrò il mio meno male che non c'è la pena di morte in all'AIA. Insomma. Professor Pokhar, un'agenzia dice che se anche ci fosse questa discriminazione, l'Italia potrebbe trovarsi nell'ipotesi del tutto teorica che insomma che Daffi reincroci le strade dell'Italia, non avendo adeguato l'Italia ai codici penali di procedura penale allo statuto dell'organo, l'Italia non potrebbe arrestare Gheddafi. Ci illumini su questo, corrisponde a verità? Io credo di no, cioè credo che per arrestare Gheddafi basti un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale che tutti gli stati sono tenuti a seguire. È vero però che l'Italia non ha adeguato il proprio ordinamento allo statuto della Corte Penale Internazionale. E quindi? Cioè... Quindi se ci fosse da processare una persona in Italia per... crimini commessi secondo lo statuto della Corte, l'Italia non potrebbe farlo. Ma potrebbe arrestare, cioè potrebbe, non potrebbe processarlo, ma potrebbe arrestarlo o no? L'ordine di arresto sì, potrebbe essere eseguito. Sì. Potrebbe essere eseguito, quindi in realtà non corrisponde a verità il fatto che se Gheddafi arriva a Roma o può essere. Sembra improbabile che, sì, certo, che venga a Roma. Di recente c'è stato, adesso. No. Sì. Però ambasciatore Romano, lei insomma insiste in questo punto, una scarsa legittimità della Corte, cioè non solo gli Stati Uniti, anche la stessa Israele, gli Stati Uniti che però lei dice fanno questo paradosso, cioè non hanno ratificato il trattato però ne vogliono controllare in qualche modo l'agenda di questa Corte, anche Israele, Russia e Cina, però la risoluzione dell'ONU è in quei. E l'ONU comprende anche la Libia, anche gli Stati Uniti che hanno firmato, Israele, Russia e Cina, ha detto di sì, quindi non vale quella legittimazione superiore del Consiglio di Sicurezza rispetto alla Corte? L'ONU è una società per azioni voluta da Roosevelt in cui gli azionisti di maggioranza decidono cosa si deve fare, non la santificherei l'ONU, non è una cattedra universale di giustizia e di rettitudine, è semplicemente l'organismo internazionale di cui si servono i maggiori azionisti quando sono d'accordo, perché poi quando non sono d'accordo invece l'ONU è paralizzata e già questo mi pare serve in qualche modo a definirla. Ma se posso intervenire sì. sulla proposta di Ibrahim, sì. A me sembra molto giusto. Lo so perfettamente che neppure un processo a Tripoli o a Bengasi in queste circostanze sarebbe giusto, nel senso che noi vorremmo la giustizia internazionale, ma comunque avrebbe un significato politico interno, sarebbe interno al processo di evoluzione. No, ma per carità, io contestavo la questione, va processato lì siccome c'è la pena di morte, cioè contestavo il principio di pena di morte, se si vuol dire va processato in Libia perché ha compiuto crimini contro libici, su questo possiamo essere d'accordo e posso essere d'accordo anch'io assolutamente. Sì, ma la pena di morte naturalmente siamo tutti contrari e questo naturalmente porrebbe un problema, ma credo che il problema fondamentale sia quello di ricondurre la vicenda Gheddafi all'interno dell'evoluzione della situazione libica. I libici non debbono vivere la liquidazione di Gheddafi come un'operazione manipolata dall'esterno. Mm. Io qui mi devo fermare, ringraziando davvero Sergio Romano e il professor Fausto Pocar, che ci parlava dall'Aia, insomma, visto che fa parte del Tribunale Internazionale per i Crimini nell'ex Jugoslavia e nel genocidio del Ruanda, che io voglio ricordare, sempre spesso dimenticato, il genocidio ruandese nel 1994, 1 milione di morti in un mese, 1 milione in un mese, in tre mesi, fate un po' i calcoli. E, che dire, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, vi lascio con quello che mi rimbomba nelle orecchie, mi allieterà tutta la giornata. Eccola qua, Gheddafi. A domani.